Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Napolitano replica a Berlusconi: da anni sono un uomo delle istituzioni e non di parte. Svolta nelle indagini per l'attentato di Milano, fermati un egiziano e un libico, trovati 40 kg di materiale esplosivo. Maltempo dopo i danni e le vittime delle ultime 24 ore, migliora la situazione in Italia. Ciclismo, muore Van den Broek, stella belga sul comodino, tranquillanti e insulina. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione. In apertura di GR24 il discorso del presidente Giorgio Napolitano alla conferenza dei prefetti. Non sono un uomo di parte, ha detto il capo dello Stato dopo che il presidente del Consiglio Berlusconi lo aveva più volte definito uomo di sinistra. Andiamo con Elisabetta Fiorito, buongiorno. Buongiorno, nuovo capitolo quindi dello scontro istituzionale tra Quirinale e Palazzo Chigi. Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano interviene alla prima conferenza dei prefetti e rivendica la sua neutralità istituzionale, ma sentiamo Napolitano. Io desidero sottolineare come 13 anni fa, nell'assumere l'incarico di Ministro dell'Interno, che ero, consentitemi questo accenno personale, determinato a svolgere come uomo ormai delle istituzioni e non di una parte politica, ebbi ben presto chiaro che occorreva sgomberare il terreno dalla anacronistica suggestione dell'abolizione dei prefetti, per impegnarsi invece a ridisegnarne le funzioni proprio a sostegno della trasformazione dello Stato ormai avviata. Una replica quindi al premier Silvio Berlusconi, che aveva attaccato il capo dello Stato dopo la bocciatura sul lodo Alfano. Per Napolitano al Paese serve un clima costruttivo e di dialogo, servono incisive riforme costituzionali e i contrasti sulla sicurezza non devono impedire una discussione, una concreta ricerca delle risposte da dare. Sull'immigrazione però Napolitano si distingue dalla Lega e dal ministro degli interni Roberto Maroni. La lotta ai clandestini, dice il Presidente della Repubblica, deve svolgersi nel rispetto dei diritti umani, in particolare del diritto d'asilo. Per realizzare il federalismo poi, per Napolitano, occorrono alcune incisive modifiche costituzionali. E per il momento qui da Roma è tutto, voi studio. Grazie Elisabetta Fiorito, e ha parlato anche il ministro degli interni Maroni alla conferenza dei prefetti. Ci sono anche novità sulle indagini per l'attentato di Milano. Prima però un altro argomento, perché dopo la bocciatura del lodo Alfano è uno dei temi caldi della politica in queste ore l'ipotesi di reintrodurre nell'ordinamento italiano l'immunità parlamentare, abolita, ricorderete, nel 1993. A questo infatti era dedicato oggi il nostro sondaggio. Che ne pensate? Sareste favorevoli? Queste le vostre risposte. Per ora se ne parla un po' sotto traccia. Chi ha proposto legge al riguardo dice di parlare a titolo personale. Certo è che nel panorama politico torna a riaffacciarsi un tema che pareva sepolto da Tangentopoli: l'immunità parlamentare, abolita nel 93 sull'onda di Mani Pulite che qualcuno oggi vorrebbe ripristinare. È il caso del senatore Malan del Popolo della Libertà. Dal 93 ad oggi c'è uno stato di scontro continuo, quantomeno frequente, fra la politica e la magistratura. Io credo che ciascuno di questi due ambiti deve essere indipendente, ciascuno si deve assumere le proprie responsabilità. L'indipendenza della magistratura è un patrimonio per il Paese, ma anche l'indipendenza della politica. Ma voi reintrodurreste l'immunità parlamentare? Era il sondaggio di oggi e l'85% di chi ha risposto si è espresso chiaramente: no. Bianco o Nero torna domattina alle 8.30 per votare, radio24.it o ilsole24ore.com. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. E come dicevamo, il capo dello Stato ha parlato alla conferenza dei prefetti, dove è intervenuto anche il ministro degli interni Maroni. Ha parlato di sicurezza il nostro inviato Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Diversi temi al centro della prima conferenza dei prefetti qui alla Scuola Superiore dell'Amministrazione degli Interni. È intervenuto questa mattina il capo dello Stato. Per il Presidente della Repubblica va valorizzato il ruolo proprio dei prefetti nella tutela della sicurezza. Concetto, ha detto Napolitano, che si è fatto più ampio e comprensivo, ma che non può però travalicare un principio solo. Alle forze di polizia spetta la salvaguardia attiva della sicurezza dei cittadini. Confronto poi nell'ambito dei lavori della conferenza tra amministratori locali e ministro dell'Interno all'interno. Con il federalismo, ha detto Maroni, si delinea un nuovo ruolo per i prefetti. La richiesta che oggi viene avanzata dai cittadini, ha detto ancora Maroni, è che l'intervento pubblico sia calibrato sulla specialità della dimensione territoriale. Maroni si è soffermato quindi sulla convocazione oggi alle 15.30 del Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza ed ha spiegato che la riunione è finalizzata a raccogliere tutte le informazioni che ci consentano di valutare attentamente la situazione per prendere eventuali e opportune decisioni. Chiaro il riferimento all'attentato di ieri a Milano. E da Roma è tutto, linea allo studio. E grazie anche a Vincenzo Miglietta. E proprio per quanto riguarda l'attentato di Milano, sembrano giunte a una svolta le indagini. Nella notte sono stati fermati due presunti complici di Mohamed Ghame e sono stati sequestrati anche alcuni chili di materiale esplosivo da Palazzo di Giustizia a Milano. Tutti gli aggiornamenti con Raffaella Calandra. Sì, buongiorno. Avevano deciso di entrare in azione una settimana fa. Sette giorni fa Mohamed Ghame aveva acquistato il nitrato di ammonio usato per la fabbricazione dell'ordigno esploso ieri ed altro ancora è stato trovato nella casa dove abitava uno dei due complici fermati la scorsa notte. Si tratta di un egiziano, Mohamed Kohl, classe 57, e di un libico, Imbaye Israel, di 20 anni, più giovane. Abitavano tutti nella stessa zona, San Siro. Nella perquisizione sono stati trovati altri 40 kg di nitrato insieme ad altre decine di chili di sostanze chimiche che unite al primo potevano riprodurre lo stesso ordigno usato davanti alla caserma. I due complici a cui sono contestati gli stessi reati di Ghame, detenzione, fabbricazione e porto di esplosivi, avrebbero aiutato Ghame a comporre materialmente l'ordigno e uno lo avrebbe anche accompagnato ieri mattina in via Perucchetti. Al momento non risultano contatti con cellule straniere, ma si sta cercando di ricostruire la rete dei loro rapporti, compresi altri complici, e vi si sta cercando di capire cosa abbia fatto scattare in loro, in persone che avevano una vita occidentale molto ben inserita anche in Italia, la voglia di dichiarare una guerra personale all'Italia. E per ora dal Palazzo di Giustizia è tutto. Grazie Raffaella Calandra, queste dunque le ultime notizie, gli aggiornamenti, retroscena dell'attentato fortunatamente fallito ieri alla caserma Santa Barbara di Milano. Adesso invece parliamo del maltempo, perché sembra rientrata l'allerta in tutta Italia, l'attenzione però resta nelle zone difficili come Messina e l'Abruzzo e domani le temperature diminuiranno ancora, sentiamo. Temperature basse e neve, l'Abruzzo trema per il freddo. Il maltempo ieri ha causato danni in molte zone della regione già colpite dal terremoto. Disagi per gli sfollati, soprattutto a Coppito, L'Aquila, dove si sono registrati sbalzi di energia elettrica e diverse tende sono state scoperchiate e allagate. Una donna a Pescara è rimasta ferita da un tabellone pubblicitario piombato sull'auto sulla quale viaggiava con il figlio. L'attenzione è alta anche in Sicilia, in provincia di Messina, dove era stato dichiarato lo stato d'emergenza per il recente nubifragio. La situazione, dicono dal servizio meteo della protezione civile, per ora è sotto controllo. Alexander Tognazzo. Per quanto riguarda la Sicilia, l'unico fenomeno di rilievo sono state la ventilazione forte. Per quanto riguarda invece l'Abruzzo, abbiamo avuto un forte temporale con anche della ventilazione molto sostenuta, però in questo momento i venti sono in decisa attenuazione. Chiaramente assistiamo a un calo di temperature. Se per esempio questa mattina all'Aquila abbiamo avuto una minima di più 3 gradi, quindi si avvicineranno sempre più allo zero le minime. Questo diciamo è in linea con l'andamento stagionale. Bisognerà sempre tenere d'occhio le zone, soprattutto dove ci sono già stati eventi come in Sicilia e in Calabria, e tenere d'occhio le precipitazioni previste. Giovanna Boglietti, GR24, Il Sole 24 Ore. La pagina economica: adeguare il nostro sistema di ammortizzatori sociali, lo ha detto il governatore di Banca Italia Mario Draghi a proposito del superamento dell'emergenza. E Draghi parlava alla lezione al collegio Carlo Alberto di Moncalieri. Occorre dare merito, ha poi aggiunto Draghi, al ministro Sacconi di avere messo in campo una quantità ampia e assolutamente adeguata di misure per superare la crisi. E oggi i dati di Banca Italia sui conti pubblici: calano le entrate fiscali scali, meno 2,5% nei primi 8 mesi dell'anno, contemporaneamente il debito pubblico inevitabilmente tocca un nuovo record. Allora chiediamo a Dino Pesio del Sole 24 Ore come interpretare questi dati, Dino. Sì, sono dati che hanno una loro rilevanza, considerando però che si tratta di dati che la Banca d'Italia contabilizza secondo il criterio della cassa, vale a dire i soldi che entrano e escono dallo Stato attraverso il sistema delle tesorerie quindi che vengono contabilizzati di mese in mese. E dunque sono un indicatore interessante, ma non certo completo e esaustivo per capire come sta andando esattamente sul fronte della finanza pubblica e in particolare sulle entrate. Il valore più importante è quello che diffonde il Ministero dell'Economia, ma con un certo ritardo, perché sono dati più completi e secondo il criterio della competenza economica. E detto questo, però, sono obiettivamente delle informazioni importanti, perché confermano quello che già ampiamente noto, vale a dire che per effetto prevalente della crisi economica c'è una caduta del gettito fiscale e dunque sono esattamente in linea con quel che abbiamo appreso per quel che riguardava i primi 7-8 mesi dell'anno. Adesso la tendenza mi sembra che si sia consolidata, si va verso una diminuzione del gettito che si quantifica intorno al 2-3% e credo che sia in prevalenza da attribuire appunto alla crisi economica. Grazie a Dino Pesole. E possibili risparmi per quanto riguarda i conti pubblici sarebbero dovuti arrivare, anche secondo il programma di governo, dall'abolizione per esempio delle province, anche se, e questa è la conclusione alla quale è giunto il dibattito in aula alla Camera ieri, non sarà così, perché sul DDL costituzionale presentato dall'Italia dei Valori, dove oggi è previsto il voto, e a favore voteranno però solo i deputati dell'Italia dei Valori e dell'UDC, mentre contrari Lega, PDL e Partito Democratico, nonostante, come dicevamo in campagna elettorale, in molti avessero sostenuto l'abolizione delle province. Al microfono di Katia Caramelli, Massimo Donadi, capogruppo dell'Italia dei Valori a Montecitorio. Noi sosteniamo l'abolizione delle province per due motivi. Il primo è di carattere funzionale, cioè in Italia oggi ci sono 9 diversi livelli di rappresentanza territoriale, più di quanti ce ne siano in nessun altro paese occidentale al mondo. In secondo luogo, tra tutti questi livelli di rappresentanza, oggi le province sono quelle che hanno meno competenze e soprattutto competenze che a nostro giudizio possono agevolmente essere ripartite a seconda della tipologia o ai comuni o alle regioni. Andare ad abolire oggi questa istituzione significa la possibilità di risparmiare miliardi di euro, di recuperare le capitalizzazioni in immobili, in partecipazioni in altre società che spesso non hanno nulla a che vedere con l'attività delle province, investire queste ingentissime risorse in servizi. Ci dispiace notare che tutti gli altri partiti se ne dichiaravano convinti anche loro in campagna elettorale, ma evidentemente in questi mesi hanno cambiato idea. E siamo a una storia di una persona che non c'è più, purtroppo è scomparso. Stiamo parlando di ciclismo, la stella belga Van den Broek, che aveva solo 34 anni. La sua scomparsa, tra l'altro, in circostanze misteriose, perché il corpo è stato ritrovato in una stanza d'albergo in Senegal, sul Colmodino, tranquillanti e insulina. Dario Ceccarelli è qua con noi. Un'altra storia incredibile da spiegare del ciclismo. Sì, beh, intanto va considerato che Frank Van den Broek era un grande campione. Sarebbe stato un grande campione, perché aveva tutte le qualità, aveva una classe, aveva mezzi da vendere, insomma. Purtroppo aveva questo carattere molto fragile, vulnerabile, che a un certo punto, quando sembrava che stesse per decollare, nel 99 ha vinto la Liegi-Bastogne-Liegi, niente, proprio in quel momento comincia il suo declino, un declino fatto di alternanze. In certi momenti appunto vinceva una corsa così importante, tra l'altro complessivamente ha vinto 55 corse, quindi comunque non è che, ma era in Belgio, era proprio considerato l'erede di Eddy Merckx, quindi una figura mitica, certo. E però poi, forse per questo suo carattere molto vulnerabile, forse perché ha avuto delle vicende familiari, separato dalla moglie in modo molto drammatico, nel 2005 un tentativo di suicidio, e poi da lì è cominciata quella concatenazione doping, cocaina, depressione, che a noi in Italia fa venire in mente proprio inevitabilmente la figura di Marco Pantani. Esattamente, tra l'altro stessa età, 34 anni, e così sembra quasi quelle storie simboliche, no? Che sono un po' la metafora di questo ciclismo che non riesce a uscire da questo impasse, da questa storia di droga, di cocaina, depressione. Ci sono stati altri episodi, anche per esempio Valentino Foix, un altro bergamasco che è morto anche lui a 34 anni, probabilmente perché arrivano alla fine della carriera, si rendono conto che hanno il loro passato è passato, e gli rimangono gli strascichi di questa dipendenza che poi si trasforma in cocaina. Un altro era José María Jiménez, spagnolo, morto per overdose anche lui un anno e mezzo fa, due anni fa, fratello tra l'altro, cognato di Sastre, quello del corridore spagnolo che ha vinto un Tour de France, eccetera. 13 e 19 minuti, ben ritrovati a GR24. Nella prima parte ci siamo occupati delle parole del Presidente della Repubblica Napolitano alla conferenza dei prefetti, ha replicato al Presidente del Consiglio Berlusconi, da anni ha detto sono un uomo delle istituzioni e non di parte. E poi abbiamo parlato della svolta nelle indagini per l'attentato alla caserma militare di Milano, sono stati fermati nella notte un egiziano e un libico e sono stati che sarebbero stati complici del libico che ieri appunto ha attentato alla caserma e che è gravemente ferito, e sono stati ritrovati anche 40 kg di materiale esplosivo. Poi per il maltempo rientra l'allarme dopo che nelle ultime 24 ore ci sono stati in Italia 4 morti e molti danni in diverse zone del paese. Poi abbiamo parlato anche della scomparsa della stella belga del ciclismo Van den Broeke. Adesso andiamo all'estero. E per la precisione in Iran, dove l'ex candidato riformista alle presidenziali Mehdi Karroubi è stato messo sotto inchiesta per le sue denunce di stupri in carcere da parte di persone arrestate nelle proteste seguite alle elezioni del 12 giugno. Il leader moderato iraniano Mehdi Karroubi è stato messo sotto inchiesta da una corte islamica speciale per le sue denunce di stupri in carcere contro detenuti che avevano partecipato alle proteste per la rielezione di Mahmoud Ahmadinejad. È quanto ha reso noto l'agenzia di stampa ufficiale iraniana, citando il procuratore di Teheran Abbas Jafari Daulat Abadi. Un fascicolo è stato aperto presso la speciale corte per i religiosi, ha detto Daulat Abadi. Karroubi è infatti un ahundi, ovvero un mullah del clero sciita. Il procuratore di Teheran ha aggiunto che alcune persone sono state convocate dalla corte e le affermazioni di Karroubi sono oggetto di un'indagine. Lo scorso agosto l'ex candidato alla presidenza della Repubblica aveva affermato che alcune ragazze e ragazzi arrestati per le proteste post-elettorali nel carcere di Kahr Yazad gli avevano riferito di avere subito violenze sessuali dai loro carcerieri. Adifat Ali, GR24, Il Sole 24 Ore. E rientriamo in Italia. È stato fissato per il 17 gennaio prossimo l'incontro tra il Papa e la comunità israelita. Sentiamo. 24 anni dopo la storica visita di Giovanni Paolo II nel 1986, anche Benedetto XVI renderà omaggio alla sinagoga di Roma. Ad annunciare la visita era stato lo stesso pontefice, ma ora quell'appuntamento ha una data, si terrà il 17 gennaio. Soddisfatto il rabbino capo di Roma, Riccardo Di Segni. Prima di tutto è un gesto di continuità e speriamo che sia anche portatore di un messaggio importante a livello spirituale. È la terza volta che il Papa tedesco visita una sinagoga, dopo quella di Colonia nel 2005 e quella di Park East a New York nel 2008. Un ulteriore gesto di distensione nel cammino spesso difficile del dialogo ebraico-cristiano. Proprio il 17 gennaio si celebrerà la ripristinata giornata di riflessione tra le due grandi religioni monoteiste, sospesa dopo una serie di incomprensioni. Sentiamo ancora Di Segni. C'è una volontà di proseguire il dialogo, che questo deve essere un dialogo rispettoso delle differenze, senza alcuna intenzione di conversione, e che quindi abbiamo delle cose più importanti da fare che quella di convertire l'altro, e quindi si può andare avanti. Katia Caramelli, GR24. E ora andiamo in Puglia, dove è stato chiesto il processo nei confronti del ministro Fitto, che sarebbe coinvolto in una vicenda di appalti nella sanità pugliese. L'avvocato e collega di partito del ministro, onorevole Francesco Paolo Sisto, ha dichiarato ieri che gli atti documentano l'inconsistenza delle accuse e che la richiesta di rinvio a giudizio è una non notizia, in quanto è l'esito naturale dell'udienza preliminare. D'altra parte, con la richiesta presentata ieri dalla procura di Bari al GUP Rosa Calia Di Pinto, la cronaca dell'inchiesta sulla gestione della sanità pugliese negli anni di governo del centrodestra è arrivata a una svolta. Per il titolare del Ministero delle Attività Regionali, Raffaele Fitto, i PM hanno chiesto il rinvio per l'associazione a delinquere, falso, peculato, concussione, corruzione, abuso di ufficio e illecito finanziamento ai partiti. Con lui sul banco degli imputati, la Procura di Bari vuole l'imprenditore del settore sanità, Giampaolo Angelucci, e altre 76 persone. Per i PM Renato Nitti, Roberto Rossi e Lorenzo Nicastro, che hanno ricostruito la vicenda in 163 faldoni, l'allora governatore della Puglia Fitto incassò in cambio dell'aggiudicazione dell'appalto di gestione di 11 residenze sanitarie assistenziali una presunta tangente di 500.000 euro dal gruppo Tosi Invest di proprietà degli Angelucci, nella forma di un finanziamento per il movimento politico creato da Fitto per le regionali del 2005, la Puglia prima di tutto. Per questi altri fatti, nel giugno 2006 la Camera non aveva concesso l'autorizzazione all'arresto di Fitto. Il 30 novembre è prevista la decisione del GUP. Paolo Piacenza, GR24, Il Sole 24 Ore. Ce la vedreste Giorgio Armani senatore a vita? È questa la proposta di Santo Versace, altro noto stilista italiano, che ha scritto a tal proposito una lettera al capo dello Stato napoletano. Il fatto è che Versace e Armani sono storici rivali. Sentiamo Versace al microfono di Marta Cagnola. Sono 35 anni, la moda ha cambiato l'immagine dell'Italia nel mondo. Giorgio Armani, insieme a Gianni, sono stati leader di questo cambiamento. Essendo Giorgio ormai maturo, perché ha 75 anni, ed essendo lui l'espressione più alta, perché Gianni chiaramente non può essere indicato in nessuna maniera, visto che Gianni fa una vita migliore della nostra in paradiso, a vestire i santi, gli angeli tutti quanti, e le DD e tutti gli altri che l'hanno raggiunto, mi sembra che nessuno meglio di Giorgio Armani può essere emblema dell'Italia in questo momento, specie in questo momento di te. Poi fra l'altro, siccome io Giorgio Armani l'ho sempre stimato in una maniera notevole per quello che si merita, essendo io Versace, mi sembrava la cosa più logica che fosse Santo Versace a dire al presidente napoletano: non sbagliamo, nominiamo senatore a vita la persona migliore che c'è in questo momento a livello di rappresentatività dell'Italia all'estero, e quello che ha lavorato in maniera incredibile in questi anni, perché ricordati che la moda è un mondo speciale, all'anno di 6 mesi, perché è più veloce di tutto il resto, la meritocrazia l'applica a 360 gradi, è un mondo aperto, è un mondo che dal sistema paese riceve solo danni. Però la moda continua a svilupparsi. Se tu vedessi i fatturati della moda nel 70, poi nell'80, poi nel 90, nel 2000 e 2010, se tu andassi a vedere cosa fatturava Vuitton nel 1970, resteresti sconvolta di quanto fatturava poco, quasi niente. È un mondo straordinario. Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessio Maurizi, il coordinamento di Daniele Biacchesi, regia Fabio Cantadori. Adesso arriva Stefano Pistolini. Buongiorno America. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.